Giunse dunque a tentarti d'infedeltà de miglia, e tanto spera dall'amor tuo. Sì, ma per quanto io l'ami, amo più la mia gloria. Infido a te mi finsi per sicurezza tua, così palesi saranno i suoi disegni. Ma fulvio amico, tutto affido me stesso, or mentre io vado il campo a rivedere, qui resta e segui il soccorso a scoprir. Tu parti? Io veggio prevenire a tumulti che la tardanza mia d'estar potrebbe. Peccatone! Lui vanne e l'assicura che pria che giunga a mezzo corso il giorno a noi farò ritorno. Marzia che viene, in libertà mi lascia un momento con lei. Finora in vano la ricercai, tenuto. Io so che l'ami, so che t'adora nec'ella, e so per prova qual piacere si ritrova dopo lunga stagione nelle dolci stanze che rivede le sue belle. Pur ti rivego Marzia agli occhi miei appena il credo, e temo che per costume affigurarti avvezzo mi lusinghi il pensiero. E tu chi sei? Chi sono? E com'è richiesto? E scherzo! E sogno! Così tu di pensiero, o così di sembianza, io mi cangiai! Non mi ravvisco! Io non ti vidi mai! Cesare non vedesti! Cesare non ravvisi! L'onore del Campidoglio, il terror dei nemici, la delizia di Roma, del mondo intero, dolce speranza, e mia. Questo Cesare amai, questo mi piacque, pria che la bestia del cielo dove è diviso, questo Cesare torni, e lo ravviso, sempre di stesso sono, combattei per difesa, a te dovevo confermare questa vita, e se pugnando scorsi poi vincitor di regno in regno, spira in farmi così di te più degno. Molto ti teggio in vera, se in giusto offesi il tuo cor generoso a me perdona. Io semplice finora sempre credei che si facesse guerra solamente ai nemici, e non spiegai come pegni amorosi i tuoi fuochi. Ma in avvenir l'affetto d'un grande eroe che vive innamorato conoscerò così. Barbaro ingrato, che far di più dovrai? Supplice io stesso, venga chiedermi in pace. Quando potrei, tu sai, so che con l'armi però la chiedi, e disarmato il dire dei nemici o d'espormi. E di che il solo in pace il tuo disegno è il padre mio, di che lo bravi estinto e che non soffri del mondo che vincesti, che soldatore a soggiogarti resti. Or l'ascolta e perdona un sincero parlar, quanto me stessi io t'amo, è ver, ma la beltà del volto non fu che mi legò, Catone adora il sen di posso dirti ancor più. Se mi imponessi un nome di perdere un di voi, morir da fuori la scelta potrei. Ma Catone in un marzio io salverei. E quel Cesino comincio adesso ad avvisarlo in te. Così mi piaci, così mi innamorasti. Ma Catone, io non ne son gelosa. Un tal rivale se divide il tuo cuore, più degno sei io ti conservi amore. Questa è troppo vettura.